100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. La vicenda delle quattro banche, Cari Chieti, Cari Ferrara, Banca Marche e Popolare dell'Etruria, salvate il mese scorso dal governo, sta assumendo per alcuni versi anche aspetti grotteschi. Perché ad Ancona addirittura un tour operator si è messo a organizzare due pullman per portare gli onesti risparmiatori vittime del dissesto di Banca Marche sotto casa dell'ex direttore generale Massimo Bianconi. Un tour degli onesti che, al di là del lato folcloristico, poco effetto potrà chiaramente avere. Ma tour degli onesti a parte, vedremo che tipo di soluzione parziale, come anticipato da Sole 24 Ore, riuscirà a mettere in campo il governo. Si pensa a un risarcimento di una quota minoritaria e di un fondo che non superi 100 milioni di euro. Sarà quindi un risarcimento sicuramente parziale, ma soprattutto quello che deve essere chiaro per tutti i risparmiatori italiani, senza creare allarmismi e terrorismo finanziario, è che le regole con cui sono state salvate, per così dire, le quattro banche in questione, dal 1 gennaio diventeranno le regole per tutte le banche dell'area euro. Il cosiddetto bail-in infatti prevede proprio che non vengano tutelati non solo gli obbligazionisti subordinati, gli obbligazionisti senior e i correntisti per la parte eccedente i 100.000 euro di deposito sul conto corrente. È bene ricordarlo, perché è giusto che i clienti delle banche sappiano che anche nel caso delle obbligazioni bancarie il capitale non è tutelato. Una piccola rivoluzione per i risparmiatori che sottoscrivono obbligazioni bancarie, che va guardata con attenzione, richiedendo ancora più informazioni quando si è allo sportello, per poi non dover organizzare altri tour degli onesti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. La notizia dovrebbe essere positiva. Il petrolio continua a scendere, il Brent addirittura è sceso sotto i 40 dollari a barile, un livello che non si vedeva da anni e che fa pensare a ribassi della benzina e minori costi dell'energia per le imprese, soprattutto quelle manifatturiere. In realtà, purtroppo, la borsa va da una parte e il sentimento collettivo va ancora una volta dall'altra. L'annuncio appunto dell'OPEC che non ci saranno rialzi produttivi, anzi che tutto sommato la produzione di petrolio resterà stabile, ha provocato non solo la caduta dei prezzi del greggio, ma soprattutto un'onda d'urto in borsa che si è abbattuta prima sui titoli del settore energetico e poi su quelli del settore delle grandi società petrolifere americane. Un po' un'onda d'urto che ha avuto un riverbero su tutto il listino, tant'è vero che dall'Atlantico fino a Milano le perdite dei grandi listini sono tra l'ordine dell'1,5% e addirittura del 2,5% per Milano. Ma che cosa sta succedendo? Si stanno incastrando troppi problemi. Da una parte il tentativo di far salire l'inflazione in Europa con Mario Draghi che continua a mettere liquidità nel sistema, dall'altro le grandi incertezze sui profitti e soprattutto legate ai cambi e ai tassi di interesse sulle due sponde dell'Atlantico, tanta confusione su cui si mette pure il terrorismo a dire la sua. Che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi? Da una parte c'è la sensazione che, come ogni anno, anche quest'anno, nelle ultime due settimane di contrattazioni, potrebbe esserci il famoso rally di fine anno che riporta in alto le quotazioni. Ma viste le incertezze è bene rimanere prudenti e soprattutto non è ancora chiaro come la Banca Centrale Europea gestirà questa fase delicatissima del rapporto con i mercati. È un momento delicato e forse è proprio qui che servirebbe più politica. Una politica che tende non soltanto a rassicurare i cittadini sul fronte del terrorismo, ma che tende soprattutto a rafforzare la sensazione che c'è una guida per portare l'economia, le famiglie e il lavoro fuori dal tunnel in cui purtroppo ancora ci troviamo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.